State ascoltando Radio Isvara. Radio Isvara vi invita all'ascolto di Manunat Prabhu, lezioni e conversazioni. Ok. Siamo tornati in linea. Posso rispondere alle due domande del nostro gradito ospite. Per quanto riguarda la sessualità. Noi partiamo dal principio, che è un po' l'ABC della nostra filosofia, nonché della ragione per cui facciamo un tipo di pratica piuttosto che un'altra, che noi siamo distinti dal corpo materiale. Cerchiamo di realizzare la nostra spiritualità. E come abbiamo spiegato nel corso di un'ora e mezza, di nuovo lei purtroppo non è potuto venire prima, abbiamo determinato che noi siamo distinti dal corpo. È ovvio che la sessualità, in buona parte, si esprime con atti fisici, viene generato da un'attrazione fisica, provoca sensazioni che provengono dal corpo e che generano altri tipi di emozioni che sono materiali. Con ciò non voglio dire che tutto quello che c'è fra un uomo e una donna sia solamente materiale. Dico però che la sessualità è decisamente qualcosa che fa parte del mondo della materia, tanto che il mondo della materia esiste per la sessualità. Noi tutti siamo nati da un atto sessuale. Quindi è un meccanismo tipicamente materiale. La nostra filosofia dice che non abbiamo bisogno di vita sessuale né per essere felici, né per realizzarci spiritualmente, ancor di meno per realizzarci spiritualmente. La sessualità lega al corpo della materia e l'illusione, perché genera emozioni forti che riguardano il corpo e la psiche fisica. Per questa ragione noi ci asteniamo, più che sia possibile, dalle attività sessuali. Poi per quanto riguarda l'amore, abbiamo parlato di quella terza domanda, abbiamo parlato a lungo di questo. L'amore è il fulcro della vita spirituale e tutto quello che noi facciamo è servizio devozionale, l'abbiamo detto prima. Il servizio è la maniera di esprimere l'amore, no? Amicizia, fratellanza, tutte le migliori qualità umane vengono espresse con il servizio. Se uno ha un fratello, gli vuole bene, gli fa qualcosa, gli fa piacere, e questo si chiama servizio. Dare a Krishna e vivere la vita in coscienza di Krishna significa fare qualcosa che a lui possa fare piacere. Questo fare qualcosa che a lui possa fare piacere, come cantare Hare Krishna, come studiare le scritture, come cercare di comunicare questa stupenda esperienza devozionale agli altri, questo è la maniera di esprimere amore. Ma bisogna capire cosa è amore e cosa è lussuria, sono due cose diverse, cioè amore spirituale e amore materiale. Tanto che in sanscrito amore spirituale e amore materiale si chiamano con due termini diversi. Amore spirituale è prema, amore materiale è kama. Sono due parole diverse, kama, come Kama Sutra, kama, con la kappa. Bene, se tu hai... Che relazione hanno? Una relazione di superiorità e inferiorità? O uno ha più potenza dell'altro? Cosa stiamo parlando? Perché questo mi confonde sempre quando sono in contatto con i devoti. Questa relazione tra Vishnu e Krishna. Ah, sì. E questo è un argomento piuttosto tecnico. Se me lo facevi all'inizio, potevo spendere un po' più tempo. Però diciamo qualcosa, magari... Okay. Se hai un collegamento internet, tu puoi magari fare qualsiasi domanda su internet a me in maniera specifica. Io ti risponderò con tutta la dovizia di particolari necessarie per capire bene la questione. Se hai un libro scritto da Srila Prabhupada che si chiama Gli insegnamenti del Signore Chaitanya, c'è un capitolo che tratta di questo ed è estremamente interessante. Ti consiglio di leggerlo, o la di Lila della Chaitanya Charitamrita, dove ci sono diversi capitoli che parla di questo e lo specificano. Dunque, nel mondo spirituale il termine superiore e inferiore è un po' diverso dal nostro concetto di superiore o inferiore. Perché mentre nel mondo spirituale, mentre nel mondo materiale, qualcosa che è inferiore ha meno valore, nel mondo spirituale non è così. Nel mondo spirituale tutto è assoluto. Ci può essere, la matematica spirituale è diversa. Nel mondo spirituale ci può essere qualcosa di superiore senza che l'altra sia inferiore. Cioè, qui nel mondo materiale vediamo superiore, sopra e inferiore. Invece nel mondo spirituale qui si parla di diversità. Queste diversità vengono espresse con termine tecnico con la parola tattva. No? Tattva è una di quelle parole un po' difficili da tradurre, no? Perché non sono espressioni di un concetto, non sono parole propriamente dette, no? E tattva si può tradurre con il concetto di valore assoluto di una data persona, di una data cosa. Krishna è uno perché deve essere uno, perché se Krishna non fosse uno, fosse solamente tanti, allora non potrebbe essere il Supremo, perché il Supremo è uno. Però allo stesso tempo Krishna, Dio, si manifesta in tanti, perché se fosse solo uno e non fosse anche tanti, allora non sarebbe Dio, perché gli mancherebbe qualcosa. Di conseguenza Dio è uno e tanti contemporaneamente, in modo da creare un concetto completo in cui non manca nulla. Dio non può mancare nulla, se no non è Dio. Capisci? Perciò Dio è Krishna, è la suprema personalità di Dio, ma egli espande. Cosa significa espandere? Ho fatto un esempio forse chiarificatore, lo spero prima, adesso lo rifaccio in modo che tu possa capire. Mettiamo che il mio parlare fosse una mia capacità, una mia energia, in sanscrito viene chiamata Shakti, o la mia Shakti. Il mio parlare è una mia Shakti. Io non posso personificare la mia Shakti, perché non ne ho le capacità. La mia Shakti di parlare è solo la mia energia e tale rimane. Nel momento in cui chiudo la bocca, la mia Shakti non si manifesta più. Dio invece ha altre capacità, ha capacità supreme, per cui le sue capacità si personalizzano. La capacità di Krishna di creare si personalizza in Vishnu, e Vishnu è il creatore. Però siccome ogni capacità di Krishna è solo un settore di Krishna, di conseguenza nascono le manifestazioni divine che sono parziali e quindi da un nostro punto di vista si possono definire inferiori. Capisci? Sono inferiori perché hanno meno capacità, ma non perché egli non sia Krishna, egli è Krishna, solo che si manifesta parzialmente. Di conseguenza, Vishnu è potenzialmente Krishna nella sua piena gloria e potenza, ma allo stesso tempo non lo è perché egli è una manifestazione parziale della potenza di Krishna. Capisci? E le varie incarnazioni di Vishnu, come Ramachandra, Varaha, Nishimha, Vamana, Matsyavatara, eccetera. Per quale motivo queste sono manifestazioni anche parziali di Vishnu? Perché vengono per un motivo particolare. Ramachandra perché viene? Viene per uccidere i demoni, no? Sai la storia sicuramente. Ecco, lui viene uccidere. E quindi non ha tutte le potenze di Vishnu, perché Vishnu non le manifesta, perché non ne ha bisogno. Sebbene, di nuovo, Ramachandra abbia potenzialmente tutte le potenze di Vishnu, perché egli è Vishnu, però non le manifesta. Di conseguenza diciamo che Ramachandra sia un'incarnazione parziale di Vishnu. Come Balarama. Balarama è Krishna. Non c'è differenza fra Krishna e Balarama. Però Balarama non balla con le gopi, almeno non balla con quelle gopi, balla con altre gopi. Non ha la pelle come Krishna. Di conseguenza dobbiamo dire che Balarama è Krishna, però manifesta delle energie diverse. E la piena personalità di Dio, il Purna, il Purna Purusha, quella personalità in pieno, quello è solo uno, è Krishna. Deve essere così, ci deve essere una persona suprema, se no la filosofia non funziona più. Grazie. Qualcuno vuole fare una domanda? Se ci sono altre domande, accettiamo. Antonio, altrimenti la serata. Avevi qualcosa da chiedere? State ascoltando Radio Isvara. Chi ci garantisce a noi che i Veda siano autentici? Dato che abbiamo parlato di autenticità, cosa ci garantisce? Perché, insomma, uno scritto di 5.000 anni fa, o perlomeno di molti anni fa... Intanto bisogna leggerli, se non li leggiamo, perché ci sono quelle persone, non mi riferisco a te ora, no? Ci sono quelle persone che senza neanche averle lette già partono, chi ti dice che... ma chi ti dice che prima leggi e poi parliamo, no? Questa è la prima cosa che bisogna fare. Chi ti dice che Krishna è Dio? Ma tu lo conosci Dio? No. Tu lo conosci Krishna? No. E allora di che, perché vuoi parlare di una cosa che non conosci? Io lo conosco, perché ho tutta la vita che sto in questo ambiente, che Krishna è il mio Dio. Quindi questa, se si pone la questione in senso di sfida, sinceramente non si va molto lontani. Perché... Ma non è seria la domanda, no? Chi ti dice, chi ti garantisce? Se invece vogliamo... Oppure vogliamo potrei farla in un altro modo, la domanda. No, va benissimo, la domanda così, no? Era un po' provocatoria. La prima questione è che bisogna leggerli per capire se sono autentici o no, perché è ovvio che se tu dici questo è un libro che parla di scacchi, e tu lo apri e vedi che ci sono ricette vegetariane, è ovvio che dici, non lo capisci. Non è, no, la scrittura non è autentica. Capire che i Veda parlano di Dio è ovvio, perché come li apri cominciano a parlare di Dio, questo, del mondo spirituale, di queste cose qua. I Veda vengono intanto garantiti dalla linea di maestri spirituali che li rappresentano, che li studiano, ecco, e che li trattano. Esatto, io infatti intendevo proprio quali sono originali, perché magari si trovano vari Bhagavad Gita, o come vari tipi di vari scrittori, diciamo. No, la Bhagavad Gita. Qual è quella originale? Sì. No, la Bhagavad Gita. Però forse l'interpretazione e la spiegazione, no, che cambia. Il verso è sempre la stessa. Quello che cambia è la spiegazione. Quindi il sanscrito, perlomeno su quello siamo sicuri. Sì. Poi dopo la spiegazione e la traduzione, allora. Il sanscrito è sempre lo stesso, nessuno lo cambia. Se qualcuno lo cambia, questa persona va veramente... Si vedrebbe, però. Bisogna togliere dalle mani la penna a questa persona. Assolutamente. Non è una cosa seria. Quello che cambia sono le spiegazioni. Queste spiegazioni sono di due tipi, false e autentiche. Si possono chiamare anche interpretazioni? Anche interpretazioni, certo. Quelle false sono false, non ne parliamo neanche, no? Quelle vere si dividono in due parti, e cioè quelle vere che promuovono verità che sono direttamente collegate all'espressione culturale del verso stesso, ovvero sia che danno una spiegazione rigorosa in accordo alla cultura dell'epoca di quando la Bhagavad Gita è stata scritta, e invece quelle interpretazioni che cercano di esprimere gli stessi identici concetti, però con un linguaggio moderno che è più facilmente comprensibile questa epoca, insomma, a questo all'epoca. periodo. Perché ovviamente se noi vogliamo spiegare la Bhagavad Gita usando lo stesso linguaggio dei Brahmana, dello yoga precedente, Non si nessuno, capirebbe nulla, ovviamente molto pochi io, almeno capirebbero io. qualcosa. L'opera di un maestro spirituale serio è quella di modificare il linguaggio pur mantenendo inalterati i significati, la sostanza, Contenuto, insomma. usando magari un linguaggio diverso. Le analogie, ad esempio, che sono molto utili per capire le Certo. cose, se tu vivi 100 anni fa, farai analogie riferendoti a persone o fenomeni vissuti 100 anni fa. Certo, come riferimenti di prima, insomma, in base al tempo, Non fanno accendere la lampadina in testa alla per persona, far capire, insomma, il perché servono. non sono persone o fatti. Se invece tu, invece di come Prabhupada ogni tanto menzionava, non so, Subhas Chandra Bose, che era un uomo politico importantissimo al suo tempo, ma qui non lo conosce nessuno. Se vogliamo proprio fare un'analogia usando persone di oggi, possiamo usare Berlusconi, possiamo usare Bush, possiamo usare Per poco, ma sì. Dunque, i maestri spirituali garantiscono l'autenticità delle scritture. Come fanno a garantirle? Beh, intanto con la loro esperienza stessa. In altre parole, se un libro insegna un processo autentico e se chi lo applica ha i risultati che vengono previsti e descritti nelle scritture stesse, vuol dire che il processo funziona. Una prova. Non dico che la prova sia completa e perfetta e via dicendo, però dà Percentuale di, insomma, di. una buona percentuale di autenticità. È chiaro che se il libro ti dice fai questo e riceverai quello, tu fai quello e non ricevi quello, è evidente che la scrittura non funziona. Per cui i praticanti danno la garanzia, la pratica dei praticanti dà la garanzia dell'autenticità dei Veda. Ci sono anche dei risultati che possono essere discutibili, no? Magari dei risultati che apparentemente sono spirituali, causati da suggestioni, causati da casualità, possono essere tante spiegazioni, ma certo le ipotesi di negative sono comunque delle cose che hanno meno valore nei confronti di una prova, specialmente quando questa prova è stata ripetuta nei millenni da milioni, milioni e milioni di persone che praticando quel tipo di disciplina ottengono Hanno tutti avuto lo gli stesso stessi, risultato. È anche il ovvio. numero di persone che hanno raggiunto dei E risultati con quella tecnica, certo, perché chiamiamola se una così. persona mette insieme questo e questo e ha questo risultato, uno può dire vabbè, è casuale, oppure Poi in non varie epoche è. Sì. oltretutto, quindi Se però 2, 3, 4, 100 milioni di persone fanno le stesse il cose e i caso risultati stesso. sono gli stessi, è evidente che una forma di fiducia ragionevole possiamo averla nei confronti delle scritture. Poi anche i maestri nel tempo ci confermano le scritture, i maestri autentici, nel tempo, diciamo, se Si non fu, verificano a vicenda. diciamo, si autorizzano, diciamo, Si nel autorizzano a tempo, vicenda, le sì, esatto. scritture autorizzano i maestri autorizzano le Quindi scritture. se nel tempo la scrittura che arriva oggi è sempre la stessa, vuol dire che tutti i maestri indietro hanno accettato quella cosa. Certo, Questa. è come la corrente elettrica, no? Se noi prendiamo una prolunga e la attacchiamo alla presa della corrente, la corrente che riceviamo dalla presa e dalla fine della prolunga sarà la stessa. Se ne attacchiamo una seconda prolunga, noi vediamo che sarà la stessa. Se ne attacchiamo 100 e la 66esima è guasta, al centesimo la corrente non arriva perché c'è un elemento di Della difetto. catena che. Questo processo si chiama il processo della Parampara, ovvero sia della catena di maestri e discepoli che si tramandano la conoscenza spirituale. Se nella catena c'è qualcuno che non va, questa catena non è interrotta. E cosa succede? Succede che per quanto gli studenti e i praticanti possano sforzarsi di praticare le scritture, le discipline delle scritture, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non va. E un'altra verifica dell'autenticità delle scritture e dei maestri spirituali sta proprio lì, negli effetti positivi che ricevono, che sperimentano coloro che praticano. Perché se effettivamente una persona, dopo aver studiato sotto un maestro spirituale, canta Hare Krishna, si distacca dal mondo materiale, capisce la filosofia, eccetera, eccetera, eccetera, vuol dire che è autentico, perché nulla, nessuno di materiale può causare questi effetti. La prova del 9, l'ultima prova del 9 dell'autenticità è effettivamente le qualità spirituali che evidentemente sorgono nel cuore del praticante. Avete ascoltato Manunat Prabhu, lezioni e conversazioni. Letture dai libri di Manunat Prabhu, a cura di Ramananda Das e Bhaktin Nadia. Buon ascolto da Radio Isvara. Dal libro La filosofia del Bhakti Yoga di Manunatha Dasa. Settima parte. Tornando proprio dal Shimran Bhagavatam in precedenza, hai detto che viene considerata la 19ª Purama non essendo una scrittura a parte. Puoi spiegare meglio questa affermazione? Dopo aver compilato questa voluminosissima enciclopedia del sapere, Vyasa contemplò la sua opera e non se ne sentì completamente soddisfatto. In tempestivo arrivo del suo maestro spirituale, gli servì a capirne le ragioni. Disse Narada: «Ti senti soddisfatto nel considerare il corpo o la mente come se fossero il tuo sé e quindi come oggetti di autorealizzazione? Non c'è alcun dubbio che le tue ricerche hanno un valore notevole, in quanto hai compilato un grande e fantastico lavoro, come il Mata Bharata, ma è pieno di sequenze vediche spiegate nei minimi dettagli. Hai poi chiarito i concetti che riguardano il Brahman impersonale e ciò che ne deriva. Ma ciò non è stato sufficiente. La tua insoddisfazione è causata dal non aver narrato le pure e sublimi glorie della suprema personalità di Dio». Così esortato da Narada, Vyasa scrisse la Shriman Bhagavatam, l'opera sicuramente più eccelsa di tutte. In essa sono descritte solo le attività spirituali del Signore e dei Suoi puri devoti. Leggendo questo lavoro si può ottenere un notevole avanzamento spirituale. Divisa in 12 canti, la Shriman Bhagavatam conta 18.000 sloka. L'intero 10° canto narra della vita e dell'attività di Krishna. Oltre a queste, ci sono scritture altrettanto importanti o solo opere minori? Ce ne sono di altrettanto importanti. La Bhagavad Gita, per esempio, che è parte del Bhishma Parva del Mahabharata, è un testo assolutamente fondamentale per il nostro studio. Senza leggere questo libro, crediamo che sia molto difficile addentrarsi nei meandri della filosofia spiritualistica dell'India. Anzi, sarebbe quasi sconsigliabile, in quanto chi è privo di una preparazione di base potrebbe arrivare a delle conclusioni totalmente errate. Krishna disse: questo sapere costituisce l'educazione più alta e la conoscenza più pura. E poiché da una percezione diretta del sé, mediante la realizzazione, è la perfezione della religione. È eterna e si applica con gioia. Colui che ascolta con fede e senza invidia la Bhagavad Gita diventa libero dalle reazioni del peccato e ottiene i pianeti dove risiedono coloro che sono pii. Sanyaya disse: è così meraviglioso, è quel messaggio che i capelli ti si rizzano in testa. Questo ricordo, quel magnifico e santo dialogo tra Krishna e Arjuna, sento un grande piacermi, pervadermi tutto. La Bhagavad Gita è dunque una delle scritture basilari. Noi consigliamo che venga studiata prima di un'altra. Secondi solo in ordine di studio e non di importanza, dobbiamo ricordare i numerosissimi scritti Vaishnava bengali. D'obbligo la Chaitanya Charitamrta di Krishnadas Kaviraya, la Chaitanya Bhagavata di Vrindavana Das Thakur, che narrano la vita e gli insegnamenti di Chaitanya Mahaprabhu, e i lavori di Rupa, Sanatana e Jiva Goswami, che vanno ricordati gli antichissimi Brahma Samhita e Ramayana. Ma queste cose che abbiamo menzionato sono solo le scritture più rilevanti. I libri che gli studiosi e i devoti hanno consegnato nel corso dei millenni sono così numerosi che difficilmente si potranno mai contare. Purtroppo, molti di questi tesori di saggezza sono anche andati persi. Così, le tesi che presenteremo qui non sono basate sulla nostra immaginazione o sulle nostre opinioni personali, bensì sull'autorità di questi testi e sugli insegnamenti dell'ultimo anello del Brahma Gaudivaya Sampradaya, la catena autentica di maestri che si sono tramandati questa grande conoscenza. Da lui, Srila Prabhupada, abbiamo appreso quanto abbiamo cominciato a discutere. State ascoltando Radio Isvara. Thank you. Brevi racconti con Ishvari. Buon ascolto con Radio Ishvara. Hare Krishna. Dal Ramayana narrato da Manonath Prabhu. Dalla finestra di un palazzo vide un giardino nel quale non aveva ancora guardato e volle andare a controllare. Mentalmente, con grande devozione, chiese a Dio la misericordia di ritrovarla, di dargli successo nella sua missione. Entrò in quei giardini detti Ashoka e cercò attentamente nell'interno. All'improvviso, in una radura circondata da alberi e cespugli, vide una donna così meravigliosa come nessuna poesia potrà mai descrivere appropriatamente. Ogni bellezza materiale svaniva e diventava nulla di fronte a quella bellezza trascendentale. La materia così imperfetta, caduca, illusoria, nascondeva il suo volto di fronte a quel corpo spirituale. Non poteva essere altri che Sita. Anuma non aveva dubbi. Il suo cuore gli diceva che non poteva essere altri che Sita. Ricordando la descrizione che Rama aveva fatto della sua età, delle sue fattezze fisiche, Anuman riconobbe in lei la tanto agognata Sita. Questa è Radio Ishvara. La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. nutro la speranza che tu possa trasformarti in un ottimo predicatore di lingua inglese, se servirai la missione infondendo una nuova impronta degli insegnamenti di Sri Chaitanya sugli uomini in generale e anche sui filosofi e sulle persone religiose. Da una lettera a Srila Prabhupada di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati del dicembre 1936. Ed è così che inizia il quarto capitolo della Srila Prabhupada Lilamrita, parte prima, intitolato «Come potrò servirti?». Nell'ottobre del 1932, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati guidò un gruppo di centinaia di discepoli e pellegrini in un parikram di un mese intorno ai luoghi santi di Vrindavana. Abai avrebbe voluto partecipare al parikram di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, ma non aveva potuto a causa del suo lavoro. Non di meno, il 20° giorno del pellegrinaggio partì da Allahabad con l'intento di rivedere Bhaktisiddhanta Sarasvati e sperando di unirsi almeno per un giorno al parikrama raggiungendo i pellegrini a Kosi, appena fuori dalla città di Vrindavana. Il parikrama che Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva organizzato era uno dei più grandi che si fossero mai visti a Vrindavana, richiamando così un gran numero di persone. Srila Bhaktisiddhanta si stava servendo del parikrama come di un metodo di predica su vasta scala. Fin dall'inizio del 1918, anno in cui egli aveva iniziato la sua opera missionaria, il suo particolare contributo era stato l'importanza attribuita alla predica. Precedentemente al suo avvento, i Vaishnava avevano generalmente evitato i luoghi popolati, compiendo la loro adorazione in luoghi santi e isolati come Vrindavana. Anche quando essi avevano viaggiato per predicare, l'avevano fatto nel modo semplice dei mendicanti che avevano rinunciato a tutto. I Gosvami, seguaci contemporanei di Sri Chaitanya, erano vissuti a Vrindavana sotto gli alberi, una notte sotto un albero e la notte successiva sotto un altro. Srila Bhaktisiddhanta, il cui obiettivo era quello di allargare la predica al mondo intero, sapeva che la rinuncia dei Gosvami non era possibile per gli occidentali. Perciò voleva introdurre l'idea che i devoti potevano vivere anche in un grosso palazzo adibito a tempio. Aveva accettato una grande donazione da un ricco mercante Vaishnava e nel 1930 aveva costruito un grande tempio marmoreo nel quartiere di Gab Bazar di Calcutta. Jai Madhav Madan Murari Jai Madhav Madan Murari Jai Madhav Madan. Nel medesimo anno si era spostato con molti seguaci dal piccolo quartiere affittato di Ultadanga al nuovo, imponente quartier generale. Srila Bhaktisiddhanta stava dimostrando che un devoto, benché non spendesse nemmeno un centesimo per la sua gratificazione dei sensi, poteva spendere milioni di rupie per il servizio offerto a Krishna. Mentre precedentemente i Vaishnava non avevano avuto niente in comune con le invenzioni meccaniche introdotte dagli inglesi, Srila Bhaktisiddhanta, sull'autorità delle scritture, stava mettendo in evidenza una comprensione più elevata. Era Rupa Goswami, il discepolo di Sri Chaitanya, che aveva scritto: una persona è perfettamente distaccata dai legami con il mondo materiale non quando abbandona ogni cosa, ma quando usa ogni cosa per il servizio di Krishna, Dio, la persona suprema. Deve essere chiaro che questa è la perfetta rinuncia nello yoga. Se ogni cosa è un'energia di Dio, perché dovremmo abbandonare ogni cosa? Se Dio è buono, anche la sua energia è buona. Le cose materiali non devono essere usate per il proprio piacere dei sensi, ma esse possono essere e devono essere usate per il servizio di Krishna. Per questa ragione, Srila Bhaktisiddhanta voleva usare le più moderne macchine da stampa. Voleva invitare la gente di tutto il mondo ad ascoltare la Krishna Katha in templi costruiti con sfarzo. E anche i devoti non avrebbero dovuto esitare a viaggiare sui migliori mezzi di trasporto, a indossare vesti di seta o a vivere nell'opulenza materiale. Fu in questo spirito che Srila Bhaktisiddhanta fece costruire l'edificio di Bag Bazar, dove esibì una mostra teistica, una serie di diorami costituiti da bambole di argilla elegantemente rifinite, dipinte e vestite. Tali bambole sono una forma d'arte tradizionale del Bengala, ma un allestimento di circa un centinaio di tali elaborate esibizioni che illustravano la filosofia Vaishnava e i divertimenti di Sri Krishna non si era mai visto prima. L'esibizione teistica produsse un effetto sensazionale e a migliaia le persone si recavano a visitarla. Nello stesso anno Srila Bhaktisiddhanta aveva portato circa 40 discepoli in parikrama per tutta l'India. Un viaggio caratterizzato da molte lezioni pubbliche e da incontri di Srila Bhaktisiddhanta con uomini importanti. Con l'anno 1932 egli poté disporre di 3 differenti stamperie in differenti parti dell'India e stampava 6 giornali in vari dialetti indiani. A Calcutta, un uomo politico chiese a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati come gli fosse stato possibile stampare il suo Nadia Prakash. in forma di quotidiano. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati rispose che non era una cosa sorprendente, se si considera che nella sola Calcutta si pubblicava circa una mezza dozzina di quotidiani ordinari, benché Calcutta fosse soltanto una tra le città dell'India. L'India fosse una nazione tra molte nazioni sulla Terra e la Terra fosse soltanto un insignificante pianeta tra tutti gli altri pianeti dell'universo. Questo universo fosse uno soltanto tra i numerosi universi, tanto da poter essere paragonato a un seme di mostarda in un grosso sacco di semi di mostarda. E dato che l'intera creazione materiale costituiva soltanto una piccola frazione della creazione di Dio. In Adia Prakasha non stampavano le notizie di Calcutta sulla Terra, ma notizie del cielo spirituale illimitato, che è più grande di tutti i mondi materiali considerati complessivamente. Perciò, se i quotidiani di Calcutta potevano diffondere notizie limitate alla Terra, allora non era un grande prodigio che il Nadia Prakasha apparisse giornalmente. In effetti, un giornale con le notizie riguardanti il mondo spirituale poteva essere stampato in ogni momento, senza che si verificasse una mancanza di lettori interessati all'argomento. The Harmonized, una pubblicazione in lingua inglese di Srila Bhaktisiddhanta, dava notizia del parikrama del 1932 a Vrindavana. Parikram di Sri Brajamandal. Sua Divina Grazia Paramahansa Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, il capo spirituale della comunità Madhva Gaudiya Vaishnava, seguendo l'esempio di Sri Chaitanya Mahaprabhu, esorta alla cooperazione tutte le persone di ogni nazionalità, indipendentemente dalla casta, dal credo, dal colore, dall'età e dal sesso, invitandole alla funzione devozionale di girare attorno alla santa sfera di Braja, sulle orme del Signore di Sri Krishna Chaitanya, il quale durante l'inverno del 1514 esibì il lila che consiste nel circunambulare l'intero perimetro di Sri Brajamandal. Quando, attraverso i membri della Gaudiya Math di Allahabad, Abai venne a sapere del parikrama, si trovava nel pieno dei suoi impegni relativi alla gestione della farmacia Prayag e stava viaggiando per assicurarsi nuovi clienti. Aveva però calcolato di potersi unire al gruppo almeno per 2 o 3 giorni e aveva fissato la sua mente sul pensiero di poter rivedere Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Srila Prabhupada racconta: al tempo del parikrama non ero ancora stato iniziato, ma provavo una grande ammirazione per tutti i membri della Gaudiya Math. Essi erano molto gentili con me. Pensavo, che cosa stanno facendo con questo parikram? Voglio andare anch'io. Fu così che li incontrai a Koshi. Gli spostamenti del gruppo del parikrama si svolgevano con un'efficiente organizzazione. Un gruppo partiva in anticipo portando l'occorrente per il riposo e le tende e proseguiva fino alla località che doveva essere raggiunta il giorno successivo. Là veniva sistemato l'accampamento e installata la cucina. Nel frattempo la parte più numerosa del gruppo, che trasportava le divinità di Sri Chaitanya Mahaprabhu ed era accompagnata da cantori di Kirtan, visitava i luoghi del divertimento di Krishna e la sera arrivava all'accampamento. L'accampamento, disposto a semicerchio, era diviso in settori. Ai pellegrini era assegnato un settore particolare per la notte. Nel centro era sistemata la residenza di Srila Bhaktisiddhanta e delle divinità di Sri Chaitanya, molto vicino alle tende dei sannyasi. Vi erano accampamenti separati per uomini e donne, le coppie sposate non stavano insieme. Vi era anche un corpo volontario di guardie che vegliava tutta la notte perlustrando la zona. Di notte l'accampamento con le sue centinaia di tende, con le luci a gas e i fuochi, sembrava una piccola città e la gente del luogo veniva a vedere stupita per l'organizzazione. La sera tutti si riunivano per ascoltare un discorso di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. I pellegrini si alzavano presto ogni mattina per cantare Hare Krishna tutti insieme. Poi, trasportando le divinità di Sri Chaitanya, tutti avanzavano in processione. Gruppi di kirtan, squadra di controllo, guida dei cavalli, portatori di stendardi e tutti i pellegrini. Viaggiavano così fino ai luoghi santi, il luogo di nascita di Sri Krishna, il luogo dove Krishna uccise Kamsa, il tempio di Adi Keshava, il Radhakunda, il Syamakunda e molti altri. Il massiccio pellegrinaggio di Srila Bhaktisiddhanta si stava svolgendo con grande successo quando il gruppo si trovò a dover affrontare una grande opposizione. I proprietari dei templi locali a Vrindavana si opposero a Srila Bhaktisiddhanta, che concedeva il sacro filo braminico a devoti non nati in famiglie di Brahmana. Con le sue lezioni e i suoi scritti, Srila Bhaktisiddhanta aveva ripetutamente dimostrato, sulla base delle scritture vediche, che non si è brahmana per nascita, ma per qualità. Aveva spesso citato un verso dell'Hari Bhakti Vilasa di Sanatana Goswami, dove ha affermato che come un metallo vile può diventare oro se è mescolato con il mercurio, così un uomo ordinario può diventare un brahmana se è iniziato da un maestro spirituale autentico. Egli citava spesso anche un verso dello Srimad Bhagavatam, nel quale il grande saggio Narada dice al re Yudhishthira che se una persona è nata in una famiglia di Shudra ma agisce come un Brahmana, deve essere considerata Brahmana. Mentre una persona nata in una famiglia di Brahmana che si comporti come Shudra deve essere considerata Shudra. Poiché il metodo principale per avanzare spiritualmente nel Kali Yuga è il canto del santo nome di Dio, ogni persona che canti Hare Krishna deve essere considerata una persona santa. Quando i pandita del luogo avvicinarono Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati per discutere, contestarono la sua indulgenza nel dare l'iniziazione e nel concedere il filo braminico e la veste di sannyas a persone di bassa casta. A causa dell'erudizione di Bhaktisiddhanta e alla sua energia e alla sua energica presentazione, i pandita sembrarono soddisfatti dell'esito della discussione. Ma quando il gruppo del Parikrama giunse ai 7 templi principali di Vrindavana, che erano stati eretti dai seguaci immediati di Sri Chaitanya, trovò le porte chiuse. I custodi di Vrindavana chiusero le loro botteghe e alcuni arrivarono al punto di lanciare pietre al passaggio dei pellegrini. Tuttavia, nonostante l'animosità, il gruppo del Parikrama, guidato da Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, continuò la marcia con spirito elevato e il 28 ottobre giunse a Koshi, il luogo del tesoro del padre di Krishna, il re Nanda. Partito in treno da Allahabad, Abai arrivò a Mathura e raggiunse Kochi su rickshaw. La campagna era piena di fascino per Abai. Invece delle industrie e dei grandi fabbricati, invece delle strade lastricate sulle quali viaggiava, vi erano soltanto il polverone e soffici sentieri sabbiosi. Come Vaishnava, Abai provava sensazioni che un uomo ordinario non avrebbe provato. Di quando in quando vedeva un pavone sui campi e le sue esotiche piume gli rivelavano le glorie di Vrindavana e di Krishna. Anche un non devoto, tuttavia, poteva apprezzare la grande varietà di uccelli, i loro gridi che attiravano l'attenzione e i canti che riempivano l'aria. Occasionalmente un albero si riempiva di passerotti e del loro pasto cinguettio. Essi facevano il loro insistente clamore crepuscolare prima del riposo notturno. Anche una persona inconsapevole del particolare significato di Vrindavana poteva sentire la mente sollevata a contatto con questo semplice paesaggio agreste, dove la gente alimenta il fuoco con lo sterco di mucca e la sera cuoce il pasto all'aperto. Così i fuochi aggiungono ricchi, naturali profumi a quella indefinibile mescolanza di aromi che proviene dalla terra. Si possono vedere antichi, nodosi alberi e colorate distese di fiori. Cespugli di brillanti camelli e viola, alberi fioriti di bianche corolle di parigiata e grossi e gialli fiori kadamba che raramente si vedono fuori di Vrindavana. Sulla strada vi era il traffico animato dei tanga, trascinati da cavalli. Il mese di Kartika, ottobre-novembre, è una delle stagioni dell'anno che attira molti pellegrini a Vrindavana. I tanga, a un cavallo, trasportavano intere famiglie, alcune provenienti da località distanti, centinaia di miglia. Grandi compagnie di pellegrini raggruppati per villaggio camminavano insieme, le donne nei loro luminosi sari colorati. Uomini e donne dalla pelle scura talvolta intonavano bhaja, trasportando le poche cose che possedevano mentre si dirigevano verso la città dei mille e mille templi. Vi erano uomini d'affari, come Abai, vestiti in modo più formale, venuti dalla città forse per trascorrervi il fine settimana. La maggior parte di loro sembrava che avesse una qualche motivazione religiosa. Vedere Krishna nel tempio, bagnarsi nel sacro fiume Yamuna, visitare luoghi dove Krishna aveva compiuto i suoi divertimenti, come quello di sollevare la collina Govardhana, l'uccisione del demone Keshi o la danza con le gopi nella sera. Abai era sensibile all'atmosfera di Vrindavana e notava l'attività lungo la strada, ma più di ogni altra cosa pregustava il compimento del suo viaggio, il suo nuovo incontro dopo una lunga separazione con la santa persona il cui ricordo era rimasto intatto nel suo cuore. Bhaktisiddhanta Sarasvati, che gli aveva parlato a Calcutta e lo aveva convinto ad accettare la missione di Sri Chaitanya, quella di diffondere la coscienza di Krishna. Abai voleva incontrarlo di nuovo. A questo proposito occupava in modo esclusivo la sua mente. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jamune takke hai gopi vasan hai. Dopo che ebbe raggiunto l'accampamento illuminato dalle lanterne e si fu informato presso l'apposito ufficio, ricevette il permesso di unirsi al villaggio del Parikrama. Gli fu assegnata una tenda per uomini, Grihasta, e gli fu offerto il Prasadam. Le persone erano amichevoli ed entusiaste e Abai parlò delle sue attività con i componenti del Mat di Calcutta e di Allahabad. Poi ci fu una riunione. Un sannyasi stava facendo un annuncio. Quella sera, egli disse, era stata programmata una visita al vicino tempio per vedere le divinità di Sesasai Vishnu. Alcuni pellegrini applaudirono. Haribol, Hare Krishna! Il sannyasi annunciò anche che Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Sarasvati Thakur avrebbe parlato quella sera per l'ultima volta e il giorno dopo avrebbe lasciato il gruppo del Parikrama. Così vi era la possibilità di unirsi al Parikrama oppure di rimanere alla lezione. Srila Prabhupada racconta: io li incontrai a Koshi e Keshava Maharaj stava informandoci che Srila Bhaktisiddhanta aveva intenzione di partire la mattina dopo per Mathura e avrebbe parlato della ricata quella sera. Chi lo desiderava poteva restare, altrimenti c'era l'opportunità di visitare Sesasai Vishnu. In quel momento pensai che solo 10 o 12 uomini sarebbero rimasti. Sridhara Maharaj era uno di quelli. Il mio pensiero fu questo: che cosa potrò vedere a Sesasai? Voglio ascoltare Srila Bhaktisiddhanta che parla. Voglio sentire che cosa dice. Quando Abai arrivò, Srila Bhaktisiddhanta stava già parlando. Sedeva con la schiena eretta, uno sciarre attorno alle spalle e non parlava come un oratore di professione che dà una rappresentazione programmata, ma si rivolgeva al piccolo gruppo di persone riunite nella sua stanza. Finalmente Abai era di nuovo in sua presenza. Abai era stupito di vederlo e di ascoltarlo, questa eccezionale anima che possedeva la Krishna Katha, che parlava ininterrottamente di Krishna nel suo intimo a voce bassa, in estatiche e profonde conoscenze. Abai, seduto, ascoltava con rapita attenzione. Bhaktisiddhanta aveva parlato regolarmente di Sambandha, di Abideya e di Prayojana. Sambandana è il livello di servizio devozionale nel quale la comprensione di Dio è risvegliata. Abideya è il livello in cui si offre il servizio d'amore al Signore. E Prayojana è la meta suprema. Il puro amore per Dio. Egli rivelò che le sue spiegazioni erano l'esatta ricapitolazione di ciò che originariamente era stato affermato da Krishna e poi era passato attraverso la linea di successione dei discepoli. La particolare espressione linguistica di Bhaktisiddhanta Sarasvati, per la maggior parte bengali, ma talvolta in inglese, arricchita da frequenti citazioni sanscrite tratte dagli Shastra, denotava una profonda cultura. Hare Krishna, Hare È Krishna, disse Bhaktisiddhanta Sarasvati, il solo supremo signore dell'intero universo. E al di là di quello, il signore di Vaikunta, la regione trascendentale. Data la sua posizione, nessun ostacolo può opporsi al suo piacere. Passò un'ora, due ore. Il gruppo riunito nella stanza di Srila Bhaktisiddhanta, già piccolo, si era assottigliato. Alcuni sannyasi, scusandosi, si allontanarono per attendere ai doveri relativi all'accampamento. Solo qualche leader molto intimo rimase. Abai era il solo estraneo. Naturalmente egli era un devoto, non un estraneo. Tuttavia non era un sannyasi, non aveva alcun dovere da svolgere, non era ancora iniziato e non viaggiava con il Parikrama, al quale si era unito soltanto per un giorno. In tal senso era un estraneo. La filosofia di cui Srila Bhaktisiddhanta stava parlando era però democraticamente aperta a chiunque avesse un desiderio ardente di ascoltare, e questo Abai lo stava facendo. Egli ascoltava con meraviglia. Talvolta accade che non avesse capito qualcosa, ma continuava ad ascoltare intensamente in modo sottomesso e la sua intelligenza beveva le sue parole. Sentì Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati rivelargli la diretta visione del mondo spirituale, così come una persona rivela qualcosa aprendo una porta o sollevando una cortina. Stava rivelandogli la realtà, e questa realtà era il servizio d'amore ai piedi di loto di Radha Krishna. Dio, la persona sovrana, supremamente degna di essere adorata. Con quale maestria parlava? Con quale estrema convinzione e audacia? E fu con tale timore reverenziale che Abai ascoltò, assorto in una concentrata attenzione. Naturalmente tutti i Vaishnava consideravano Krishna il loro signore, degno di adorazione. Ma in quale modo decisivo e con quale solida logica la fede dei Vaishnava era sostenuta da quel grande maestro? Dopo alcune ore, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati cessò di parlare. Abai sentì di essere pronto ad ascoltare sempre, senza interruzione, eppure non aveva dubbi imbarazzanti o quesiti da avanzare. Egli voleva solo ascoltare di più. Mentre Srila Bhaktisiddhanta usciva, Abai si inchinò, offrì i suoi omaggi e poi lasciò l'intima cerchia dei sannyasi nelle loro tende allineate e raggiunse le tende del settore esterno con la mente assorta nelle parole del suo maestro spirituale. Ora la loro relazione sembrava più tangibile. Ancora custodiva gelosamente l'impressione che Srila Bhaktisiddhanta originariamente aveva lasciato in lui quando gli aveva parlato sulla terrazza di Calcutta. Ma quella sera l'impressione singolare che lo aveva sostenuto per anni ad Allahabad si era arricchita e riempita di nuova vita. Il suo maestro spirituale e l'impressione delle sue parole erano altrettanto reali delle stelle nel cielo e della luna che brilla su Vrindavana. L'impressione che provava ascoltando le parole di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati lo riempiva della sua realtà e tutte le altre realtà prendevano forma attorno all'assoluta realtà di Srila Gurudeva, come tutti i pianeti girano attorno al sole. Il mattino successivo Abai si alzò un'ora prima dell'alba, fece il bagno e cantò i mantra in compagnia degli altri. Un po' più tardi, nella mattinata, l'alta, maestosa figura di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, vestito in semplici abiti color zafferano, entrò sul sedile posteriore di un'automobile e si allontanò dall'accampamento. Pensieroso e grave, guardò indietro e salutò, accettando gli amorosi gesti di commiato dei suoi seguaci. Abai era tra quelli. Circa un mese dopo, Abai stava di nuovo prevedendo un imminente incontro con Srila Bhaktisiddhanta, questa volta ad Allahabad. Abai era da poco tempo tornato da Vrindavana, al suo lavoro presso la farmacia Prayag, quando i devoti della Gaudiya Math di Allahabad gli comunicarono alcune buone notizie. Si erano assicurati terra e fondi per costruire un fabbricato. La Sri Rupa Gaudiya Math e Srila Bhaktisiddhanta sarebbe arrivato il 21 di novembre per presenziare alla cerimonia della posa della prima pietra. Srila William Malcolm Haley, il governatore delle Province Unite, sarebbe stato l'ospite d'onore in una grande cerimonia e avrebbe posato la prima pietra alla presenza di Srila Bhaktisiddhanta. Quando Abai apprese che si sarebbe anche tenuta una cerimonia di iniziazione, chiese se poteva essere iniziato. Atulananda, il presidente del Mata, assicurò ad Abai che l'avrebbe introdotto a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. A casa, Abai discusse il progetto dell'iniziazione con la moglie. Lei non aveva obiezioni, ma non desiderava essere iniziata a sua volta. Essi stavano già compiendo l'adorazione delle divinità a casa propria e offrendo loro il cibo. Credevano in Dio e vivevano serenamente. Per Abai, tuttavia, ciò non era abbastanza. Benché non volesse forzare sua moglie, sapeva che lui doveva essere iniziato da un puro devoto. Evitare di vivere nel peccato, agire in modo pio, queste cose erano necessarie e buone. Ma in se stesse non costituivano la vita spirituale e non possono soddisfare il desiderio dell'anima. La meta suprema dell'esistenza e l'assoluta necessità del sé era l'amore per Krishna. Questo amore per Krishna era stato infuso in lui da suo padre e ora Abai doveva fare il prossimo passo. Suo padre ne sarebbe stato molto soddisfatto. Ciò che aveva appreso da suo padre stava ora acquistando solidità per opera di una persona capace di guidare le anime cadute del mondo all'amore trascendentale per Dio. Abai sapeva che avrebbe dovuto andare avanti e prendere completo rifugio nelle istruzioni del suo maestro spirituale. Anche le scritture insegnano: chi ha il desiderio di conoscere la verità assoluta deve prendere rifugio in un maestro spirituale che sia situato nella linea di successione dei maestri e sia fisso nella coscienza di Krishna. Anche Sri Krishna Chaitanya, che era Krishna stesso, aveva accettato un maestro spirituale e solo dopo l'iniziazione aveva manifestato i pieni sintomi dell'amore estatico per Krishna mentre cantava i santi nomi. L'iniziazione che Abai aveva ricevuto a 20 anni da un sacerdote di famiglia non era stata presa in seria considerazione da Abai. Era stata una formalità relativa alla religione, ma un guru non era un semplice sacerdote addetto a celebrare i riti. Così Abai aveva respinto l'idea di avere già avuto un guru. Non aveva mai ricevuto istruzioni da lui a proposito della Bhakti e il suo guru di famiglia non lo aveva legato a Krishna attraverso la linea di successione di maestri. Attraverso l'iniziazione, Bhaktisiddhanta Sarasvati, invece, lo avrebbe collegato direttamente con Krishna. Bhaktisiddhanta, figlio di Bhaktivinoda Thakura e discepolo di Gorakhisora Dasa Babaji, era il guru nella 12ª generazione di discepoli a partire da Sri Chaitanya. Egli era il principale studioso dei Veda dell'epoca. Il Vaishnava esperto che può guidare sulla via del ritorno a Dio. Egli era stato investito di potere dai suoi predecessori affinché operasse il beneficio più alto, distribuendo a tutti la coscienza di Krishna, il rimedio per ogni sofferenza. Abai sentiva di aver già accettato Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati come suo maestro spirituale e di aver già ricevuto i suoi ordini fin dal loro primo incontro. Ora, se Srila Bhaktisiddhanta lo accettava come discepolo, la relazione sarebbe stata confermata. Egli sarebbe arrivato così presto, dopo che Abai lo aveva visto e ascoltato a Vrindavana. È così che Krishna agisce, attraverso il suo rappresentante. Era come se, venendo nel luogo in cui Abai aveva la famiglia e gli affari, il suo maestro spirituale venisse a trascinarlo maggiormente nella vita spirituale. Senza che Abai avesse fatto il tentativo di far accadere ciò, la sua relazione con Srila Bhaktisiddhanta stava diventando più profonda. Ora Srila Bhaktisiddhanta stava venendo da lui per una disposizione superiore. Il giorno della cerimonia, Bhaktisiddhanta Sarasvati incontrò i suoi discepoli alla Gaudiya di Allahabad in via Sodmallacha. Mentre gli parlava di Harikatha e riceveva domande, Atulananda Brahmachari colse l'opportunità per presentargli alcuni devoti, tra cui Abai. Come candidati per l'iniziazione. I devoti di Allahabad erano orgogliosi del signor De, che di sera frequentava regolarmente il Mata. Guidava i bhajan, ascoltava gli insegnamenti e a sua volta li trasmetteva e spesso introduceva ospiti rispettabili. Aveva contribuito con denaro e aveva indotto i suoi colleghi a fare altrettanto. A mani giunte Abai guardò umilmente il suo maestro spirituale. Srila Bhaktisiddhanta e lui si trovavano ora faccia a faccia. Srila Bhaktisiddhanta lo riconobbe e fu visibilmente compiaciuto di rivederlo. Lo conosceva già. Sì, disse, scambiando uno sguardo con Abai. Ama ascoltare. Non se ne va via. L'ho notato. Lo accetterò come mio discepolo. mentre il momento e le parole si imprimevano nel suo essere, Abai era in estasi. Atulananda era piacevolmente sorpreso che il suo Gurudeva avesse già dato il benestare per il signor De. Altri discepoli nella stanza erano contenti di vedere l'immediata considerazione espressa verso il signor De come ottimo ascoltatore. Alcuni si domandavano quando e come Srila Bhaktisiddhanta fosse giunto a tale apprezzamento del giovane farmacista. Alla cerimonia per le iniziazioni, Srila Bhaktisiddhanta era seduto sul Vyasasan e la stanza era piena di ospiti e di membri della Gaudiya Math. Coloro che dovevano essere iniziati sedevano intorno a un piccolo monticello di terra dove uno dei sannyasi di Srila Bhaktisiddhanta aveva preparato un fuoco e offerto cereali e frutti nelle fiamme. Mentre ognuno cantava i mantra per la purificazione, la sorella e il fratello di Abai erano presenti, ma la moglie non c'era. Abai si scaldava in presenza del suo Gurudeva. Sì, ama ascoltare. Le parole del suo maestro spirituale e il suo sguardo, quando l'aveva riconosciuto, erano rimaste con Abai. Abai voleva soddisfare ancora il suo maestro spirituale con un buon ascolto. Poi pensava, sarò in grado di parlare bene. Le opere vediche descrivono 9 metodi di servizio devozionale, il primo dei quali è Shravanam, l'ascolto, di ciò che si riferisce a Krishna. Poi segue Kirtanam, il canto e la glorificazione di Krishna. Sedendo pazientemente e ascoltando, Akoshi aveva soddisfatto il rappresentante di Krishna. E quando il rappresentante di Krishna è soddisfatto, anche Krishna è soddisfatto. Bhaktisiddhanta Sarasvati non lo aveva elogiato per la donazione a favore del Mata, né gli aveva consigliato di abbandonare la famiglia e gli affari per lavorare con lui, né aveva chiesto ad Abai di compiere rigide austerità come fanno gli yogi che mortificano il corpo, con digiuni e con difficili voti. Aveva detto invece, ama ascoltare, l'ho notato. Abai pensava queste cose e di nuovo ascoltava con attenzione mentre il suo maestro spirituale dirigeva le iniziazioni. Finalmente Srila Bhaktisiddhanta chiese ad Abai di farsi avanti per ricevere l'iniziazione, alla Rinama, accettando il japa di Tulasi. Dopo aver offerto i suoi omaggi, Abai stese la sua destra per ricevere la corona del japa dalla mano del suo maestro spirituale. Contemporaneamente ricevette il sacro filo braminico che stava a rappresentare la seconda iniziazione. Generalmente Srila Bhaktisiddhanta dava la prima iniziazione e solo dopo un po' di tempo, quando era soddisfatto dei progressi del suo discepolo, concedeva la seconda iniziazione. Tuttavia offrì ad Abai le due iniziazioni contemporaneamente. Ora Abai era un discepolo pronto a spiccare il volo, un brahmana che poteva compiere sacrifici, come questo yagya del fuoco per l'iniziazione. Poteva adorare le divinità nel tempio e si poteva supporre che avrebbe fatto ampie dissertazioni. Srila Bhaktisiddhanta aggiunse al suo nome Charan, il termine Aravinda, loto. Ora egli era Abai Charanaravinda.

State ascoltando Radio Isvara.